Pronto? Sì, no, no, non mi disturbi, no, no, no, no. Ehi, ciao Franco, che piacere sentirti, come stai? Ciao, ciao, dimmi, dimmi, dimmi. Hai mai provato ad ascoltarti mentre rispondi al telefono? Pensaci, quando noi chiamiamo qualcuno, appena sentiamo la sua voce, ci basta un istante per capire di che umore è. Ci basta sentirne la voce e addirittura ne immaginiamo anche il volto. Ovviamente non sto parlando di quelle fastidiosissime telefonate che riceviamo ogni giorno a decine. Buongiorno, signor Vincenzo. Sì. Salve, la contatto dalla Vodafone. Sapete che a noi preti ci chiamano anche per proporci vino da messa, icone, ostie, ma insomma, ma ho già i miei fornitori di ostie e di vino, smettetela di chiamarmi. Escludendo dunque tutte queste telefonate non gradite, tu come rispondi solitamente al telefono? Dirai, mica possiamo essere sempre ben disposti, d'accordo, avremo anche la giornata, no, in cui non abbiamo voglia di rispondere a nessuna telefonata. Però pensaci, a tutti noi fa piacere quando telefoniamo a qualcuno e sentiamo dall'altra parte un bel pronto, squillante, disponibile, che ci fa sentire che l'altra persona è contenta di sentirci. Se dunque hai il desiderio di far capire bene alla persona che ti sta chiamando che sei veramente felice di ascoltarla, vedi se questi tre piccoli stratagemmi possono esserti utili. Primo, rispondi al telefono con il sorriso. Proprio con il sorriso, sorridi, sorridi veramente. L'altro non ti sta vedendo, non c'entra. Tu sorridi quando rispondi al telefono, perché se sorridi, l'altro, anche se non ti vede, capirà che stai sorridendo. Perché la voce ha questo potere incredibile di saper comunicare emozioni anche al di là di quello che vediamo. E allora se tu sorridi rispondendo al telefono, l'altro si immaginerà il tuo volto e potrà capire la tua gioia e la piacevolezza di sentirlo che tu gli stai comunicando rispondendo proprio con il sorriso. 2. Quando rispondi al telefono, smetti di fare tutto quello che stavi facendo. Non scrivere più al computer, smetti di sgranocchiare, interrompi la lettura che stavi facendo. Stai al telefono con quella persona? Ascoltala, parlale, metti da parte tutto il resto. Mettiti comodo, oppure passeggia. In ogni caso, non fare cose che occupino la tua mente. Fai in modo che la tua attenzione mentale sia rivolta completamente alla persona con la quale stai parlando. Ti capita invece che quella telefonata venga proprio ad interromperti, a romperti le scatole, che sei occupato in qualcosa che in quel momento non puoi mettere da parte? Beh, allora in questo caso potrà esserti utile il terzo incredibile segreto che adesso ti svelerò. Se non puoi parlare in quel momento al telefono, diglielo. Piuttosto che star lì e non ascoltarla, diglielo. L'ascolti per qualche minuto e poi le dici: scusami, guarda, abbi pazienza, ma in questo momento sarei occupato a fare una cosa molto importante. Ti posso richiamare io tra 10 minuti? Oppure domani? È inutile cercare di dimostrare attenzione se in quel momento non abbiamo quell'attenzione a disposizione. Allora tanto vale dirlo. Che cosa ci costa? Direte alla faccia del segreto, verissimo, eppure quante volte è successo anche a te come a me di telefonare, di parlare con una persona e di rendermi conto che mentalmente quella persona non c'era? E che cosa sarebbe costato a lui o magari in certi altri casi a me dire all'altro: guarda, in questo momento proprio non posso, ci possiamo risentire in un altro momento? È la cosa più semplice del mondo, eppure mica sempre lo facciamo. Oh, scusate, devo proprio rispondere. Pronto? Ciao Saverio, come stai? Sì, certo che posso parlare, dai. E allora raccontami, come va?